ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a pea. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Was a good solution. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Apriamo con uno strappo alla nostra regola separatista, con una citazione di Giacomo Leopardi, però ci sembra molto adatta al momento. Anche sogliono essere odiatissimi, buoni e generosi, perché ordinariamente sono sinceri e chiamano le cose coi loro nomi. Colpa non perdonata dal genere umano, il quale non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina. In modo che più volte, mentre chi fa male ottiene ricchezze, onori e potenza, chi lo nomina è trascinato sui patiboli, essendo gli uomini prontissimi a sofferire o dagli altri o dal cielo qualunque cosa, purché in parole ne siano salvi. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. Allora, prima di tutto scusate la mia voce, ho raffreddore e quindi cercherò di non farlo notare. Dopodiché la prima parte della nostra trasmissione l'abbiamo intitolata "I borghesi con l'asterisco sono buoni, mangiamoceli". Questa è una scritta sui muri del 77 e ci è sembrata quanto mai di attualità. Perché? Perché l'Expo ha come titolazione "Nutrire il pianeta". Questo è un nostro modo per nutrire il pianeta che ci piace tantissimo. Come decir che mi parte mil la esquinita de mi hueso, che han caído los esquemas de mi vida, ahora che todo era era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Allora, chiaramente il tema dell'Expo ci porta immediatamente a quello che è successo, cioè, o comunque alla manifestazione del primo maggio. Prima di tutto la stampa mainstream si è espressa in maniera uniforme, nel senso che tutti quanti hanno avuto la stessa posizione e la stessa, è stato lo stesso unanime coro. C'è un ritorno, un fischio? No, è stata lei. Ah, con la va segna. Bene. Va bene. Uno stesso unanime coro. In particolare, per esempio, c'è un articolo di Luca Fazio sul Manifesto che è il momento di sintesi di quello che dicono i media mainstream. Perché? Perché lui parla con un finto linguaggio di sinistra e dice delle cose terrificanti, o meglio, una delle cose, cioè dice delle cose estremamente reazionarie a uso e consumo di una posizione di sinistra ammiccante da una parte e profondamente reazionaria dall'altra. Però una cosa le dice, si pone la domanda: la My Day era contro il blocco nero, insomma sto blocco nero che viene continuamente nominato, è perché il problema suo è che in effetti non c'è stato questa dichiarazione che tutte le altre volte c'era stata di distanza dalla cosiddetta violenza, no? Dice banalmente: questa stessa piazza 10 anni fa sarebbe stata due, i cattivi dietro a prenderle, gli altri davanti con le loro buone ragioni. E invece ecco perché questo primo maggio è politicamente disastroso. Quando una cosa, i borghesi dicono una cosa, sicuramente è sempre il contrario. Quindi qua ritorniamo ovviamente alla classica definizione un po' anche ridondante per noi, no? Perché sembra sempre che dobbiamo ripetere e ripetere le stesse cose, come se ci fosse qualcuno che non vuole assolutamente ascoltare. Sicuramente la valutazione è che non c'è stato appunto quello che... Il microfono tuo si sente molto male. Mi sentite? Molto male. Qua? Meglio. Ok. Allora, eccomi qui, a posto. Sì. E, per quanto ci riguarda, in realtà non c'è una divisione tra buoni e cattivi, ma al massimo ci sono pratiche differenti. Quindi il concetto della violenza, che quindi nel senso ha sempre una doppia faccia, per quanto possa non essere compreso poi dalla maggior parte, no, dei bravi cittadini democratici, il concetto di violenza per noi è la violenza che ci opprime, che ci reprime, che ci toglie la possibilità di avere una vita almeno dignitosa, insomma, senza grandi richieste, che chiede casa, che chiede rispetto sul lavoro, quel tipo di violenza è la violenza che noi combattiamo, per la quale ci sentiamo giustificati a fare anche azioni che forse a volte possono anche non avere senso, possono non portare a nulla, ma non ci interessa, anche perché lo sappiamo bene, tanto neanche il corteo colorato avrebbe portato a qualcosa, né il riot porta ad altrettanto, perché purtroppo lo vediamo in altri contesti in cui invece la tensione si alza e si porta ovviamente una violenza che per noi è resistenza, esistenza, e che però viene ovviamente immediatamente repressa, e ci strappano le ali perché ovviamente vedono che possiamo prendere il volo e non vogliono ovviamente che noi possiamo muoverci su questo. Sicuramente questa volta si sono un po' presi un palo in faccia, perché non c'è stata una grossa risposta, anche se poi tra poco, insomma, porremo anche l'altra questione, che è stata quella la Milano Bene. Sì, infatti. Che però, insomma, rappresenta poi, cioè, nel senso, se effettivamente il concetto di violenza riesce a passare, è riuscito a passare anche nei compagni, quindi effettivamente poi ci dobbiamo pure non meravigliare nel momento in cui la brava piccola borghesia scende in difesa, no, dei valori quali pulizia, ordine e non fastidio, perché effettivamente, cioè, nel senso, saremmo molti di più in strada se la gente non stesse sul suo divano a guardare la televisione. Diciamo che questa volta, per fortuna, il dibattito violenza e non violenza, che non ci dovrebbe appartenere mai, perché praticamente la violenza che subiscono tutti i giorni le oppresse e gli oppresse è quella vera e quella istituzionalizzata, continua, organizzata, e quella che ogni tanto mette in atto qualche oppresso o qualche oppressa è assolutamente ininfluente e marginale, per adesso almeno, speriamo di no in seguito, però il dibattito violenza e non violenza appunto non ci dovrebbe appartenere, è un dibattito che tira fuori sempre chi ha il potere di fatto per costringere gli oppressi in responsabilità che invece non hanno. Allora, per fortuna questa volta, in questo primo maggio, i problemi sono stati, almeno all'interno del movimento, spostati, ed è stata una cosa estremamente positiva. Cioè ci si è posto il problema delle pratiche, degli obiettivi, dei risultati, e di tirare fuori un dibattito su come incanalare pratiche, obiettivi, risultati, su come organizzare in futuro, più che un agire violento o non violento, che appunto non è anche una terminologia che non ci dovrebbe appartenere, quanto piuttosto pratiche di lotta, quanto organizzate, più organizzate, come organizzate, per gruppi, che ognuno abbia la sua o una pratica collettiva. Comunque queste cose sono tutte in discussione. Ci sono diversi contributi sui blog di movimento, che analizzano diversi punti, no? Cioè sia quello che è successo, sia il fatto che è stata una giornata scomoda, sia il fatto che per esempio una domanda a me è piaciuta moltissimo che è stata posta, guardiamoci in faccia e diciamoci le cose un attimino come stanno. Cioè, che cosa volevamo da questa manifestazione? Cioè, se la manifestazione fosse stata una manifestazione tranquilla, pacifica, che attraversava le strade colorata, che cosa avremmo ottenuto? Che cosa avremmo detto? In questo caso abbiamo detto di più, abbiamo detto di meno. Cioè il problema va posto per noi in questi termini, va posto in termini di effettiva possibilità conflittuale, effettiva possibilità di incidere in determinati modi. Quindi che cosa vuol dire incidere in un discorso, andare a fare una manifestazione per incidere? Ci vogliamo porre questo problema? Ha senso ancora incidere con una manifestazione? Sono tutte domande aperte che però esulano completamente dal discorso però mainstream. Questo ovviamente secondo me è poi ribadito dal fatto che nel momento in cui hai un obiettivo politico, quindi ovviamente un'analisi politica dietro, perché sennò l'obiettivo non lo vedi, in quel momento poi in maniera secondaria la modalità arriva. Quindi cioè, nel senso, secondo me anche tutta questa importanza che si dà alle modalità è un problema che viene semplicemente dal fatto che forse in questo momento ci stiamo chiarendo su quali sono gli obiettivi politici da percorrere. Chiarire, per esempio, secondo me la discussione e la presa d'atto di una situazione, l'analisi della situazione in cui stiamo, l'analisi delle forze che ci sono contro, cioè contro chi abbiamo a che fare, e chiarire gli obiettivi contro cui lottiamo, è il primo passo per porre poi delle pratiche, no? Tant'è vero che questa storia della gente che è venuta poi a pulire Milano quando la manifestazione è finita è particolarmente importante, e non perché questa gente sia particolarmente importante, questa gente sono degli zombie, non sono degli esseri umani, non sono più dei cittadini, sono degli esseri che sono stati privati di qualsiasi dimensione politica, sono degli esseri asserviti, sono quelli che vorrebbe il neoliberismo, sono il frutto del politicamente corretto più i valori neoliberisti che hanno portato, che hanno tirato fuori un mostro asservito, a seconda dell'occasione e dell'utilità viene tirato fuori e guidato. Il problema per noi però è un altro, che l'egemonia culturale che ha il capitale in questo momento è fortissima, nel senso è il frutto di anni di lavorio della sinistra socialdemocratica sulla compartecipazione, sul coinvolgimento del cittadino nelle sorti del capitale, sulla demonizzazione di altri immaginari, sulla chiusura di ogni spazio di speranza e sull'unica realizzazione del cittadino e della cittadina in questa società, aderendo ai valori di questa società. È questo che viene fuori dai cittadini solerti che vengono, che scendono. Oltretutto a me hanno fatto venire anche in mente un'altra cosa, cioè è quella massa estremamente reazionaria che poi ha mandato sul fascismo. Noi ci dimentichiamo forse, perché la storia è, come al solito, dovrebbe essere strumento di comprensione del presente, ci dimentichiamo come è andato su il fascismo, ci dimentichiamo della maggior parte della gente che voleva ordine e ordinatezza rispetto alle manifestazioni, alla gente che saliva sui tram per guidarli negli scioperi che facevano i tranvieri nelle grandi città, che saliva sui tram e guidava lei e guidava la gente i tram per far vedere che c'era bisogno di ordine eccetera. Quindi oltretutto il fascismo è andato su con un grande consenso popolare. Non ci raccontino balle, perché il dissenso era estremamente limitato, per cui questa modalità della gente a me ha ricordato tantissimo il ventennio. No, assolutamente, anche perché appunto la deriva poi per cui molti si sono indignati, incazzati, no? Perché appunto questa gente insultava i No Expo di qualsiasi tipo e genere. E, secondo me, nel senso, va ricollegato a quello che diceva Eli, cioè nel senso è sono appunto zombie, sono asserviti completamente al neoliberismo e hanno scelto, cioè nel senso, ma consensualmente hanno scelto di schierarsi in quel modo. Riprendo una parte di un articolo, adesso non ricordo il nome, perdonatemi, comunque sta sul giornale, un articolo di un giornalista che fondamentalmente, riprendendo la frase della signora che inneggia dalla finestra a sparare in faccia ai ragazzi, è un articolo orribile in cui fondamentalmente lui sostiene che nel momento in cui viene messo in pericolo, comunque insomma in pericolo tra virgolette, però viene deturpata una città, ci sono delle persone che dovrebbero essere arrestate, fermate, punite, oppresse, represse, e tutto questo non avviene, allora il libero cittadino è libero di sparargli. Certo, dice, non bisogna sparargli in faccia perché il morto non lo vuole nessuno, non serve un altro G8, ma ai piedi e alle gambe sì. Ecco, appunto, allora noi ci dovremmo chiedere come mai lo sappiamo, perché è un processo che è durato anni, ma il problema vero è l'egemonia culturale, cioè in questo momento il capitale ha un'egemonia culturale fortissima. Tant'è vero che le manifestazioni non si dovrebbero più preoccupare, non dovremmo più preoccuparci, non dovevamo preoccuparci neanche una volta, però c'era questa idea che si doveva portare l'opinione pubblica dalla propria parte. E prima di tutto c'è un bellissimo articolo di tempo fa di Nick La Polisse su Senza Soste rispetto al problema dell'opinione pubblica, perché dice che in effetti l'opinione pubblica è già un elemento a favore del sistema, perché è costruita dal sistema, quindi porsi il problema dell'opinione pubblica è assolutamente fuori dimensione. Invece ci dovremmo porre il problema di che cosa, quale può essere il collante, di andare a una ricomposizione di classe su quelle che possono essere i momenti di frattura che vasti strati sociali hanno rispetto al momento economico di grande difficoltà che abbiamo. Dico una stupidaggine, una per tutte, nel senso che prendetela per quello che è, tanto per fare un esempio qualsivoglia, ma se uno dice che non deve pagare le tasse, non deve pagare Equitalia, non deve pagare niente, e questo è giusto che il cittadino lo faccia per tutta una serie di motivi, questa è un desiderio che attraversa strati della popolazione che sono variegati e che non hanno necessariamente gli stessi interessi, però come diceva Gramsci, per opporsi al fronte del fascismo bisogna fare una ricomposizione sociale che tenga insieme tutti gli strati sociali che sono contro il fascismo. Poi i conti si faranno. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Compassione, pietà, ribrezzo, odio di classe. Il primo maggio, sugli schermi televisivi, in ogni canale possibile, sono passate le immagini dell'inaugurazione dell'Expo 2015 a Milano. Te le trovavi davanti dovunque, anche se cercavi semplicemente le previsioni del tempo. Non c'era scampo. Vedere quelle immagini ed essere colta da una stretta allo stomaco è stato tutt'uno. Ho avuto pietà per quelle bambine e quei bambini che cantavano l'inno di Mameli con una mano sul cuore, gettate e gettati in pasto alla propaganda da genitori senza scrupoli al servizio di chi sta costruendo per loro un futuro di miseria. Ho avuto compassione, mista con atti di vomito, per quei lavoratori in fila, con la bandiera italiana piegata in mano, con il casco e la pettorina da cantiere, un anziano, una donna, un nero, un nepalese, rappresentante ognuno di una modalità specifica di oppressione e sfruttamento accomunata da quella del lavoro. Servi felici? Schiavi rassegnati? Sciocchi strumentalizzati? Non so, ma una cosa è certa: erano l'incarnazione di un asservimento volontario che è tradimento della propria classe, del proprio genere, della propria razza, intese come categorie politiche non certo naturali. Vergogna e rabbia per loro, ribrezzo per tutte le immagini del potere che si susseguivano all'ingresso, in platea, sul palco, magistrati, politici, poliziotti, prelati, presidenti, giornalisti, deputati industriali, personalità straniere, penose manifestazioni canore, una sagra di paese per la santificazione delle multinazionali e un inno all'arroganza della borghesia. Al centro di tutto l'albero della vita, simbolo ipocrita dell'altrettanto ipocrita titolazione dell'Expo: nutrire il pianeta, che altro non sta a significare se non distruzione, rapina, predazione delle risorse umane e naturali, guerre neocoloniali, sfruttamento, militarizzazione, uno scenario di morte in cui si muovevano scheletri con l'ermellino, come nella Camera dei Lord della classe dirigente. La vita vera stava altrove, era fuori, nelle strade di Milano, in tutte quelle e in tutti quelli che non accettano, che non ci stanno, che vogliono riprendersi tutto, le case, le strade, le scuole, gli ospedali, i tempi, i modi della vita e del desiderio. Milano il primo maggio era divisa in due, la morte abitava dentro l'Expo, la vita stava fuori e troverà mille e mille modi di manifestarsi e di dimostrarlo ancora, anche contro quei fantasmi, quella parvenza di umani che sono usciti dalle tane quando la manifestazione è finita e si sono messi a pulire Milano. Mi hanno ricordato la marcia dei colletti bianchi della Fiat nel 1980 e allo stesso tempo la maggioranza silenziosa perbenista e reazionaria che ha mandato al potere il fascismo negli anni 20. La sintesi tra politicamente corretto e ipocrisia della socialdemocrazia riformista con i valori neoliberisti ha prodotto ombre di esseri umani che hanno perso qualsiasi dignità e consapevolezza e che si beano di una schiavitù volontaria. Pulite, pulite bene, pulite, togliete le tracce dei migranti affogati, dei CIE, dei lavoratori caduti dalle impalcature, di chi dorme sotto i ponti, di chi non ha casa. Pulite come pulivate le tracce dei campi di concentramento, pulite come quando denunciavate i partigiani. Continuate a pulire bene, forse i padroni del mondo vi getteranno qualche osso spolpato come ricompensa. Ciao. como decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Iniziamo la seconda parte della nostra trasmissione che abbiamo intitolato Nel nome della madre. Questo perché? Perché saprete tutti, è passato su tutti i media mainstream, di quella madre, le copertine dei giornali dei giorni scorsi, le principali testate online, gli editorialisti, sono stati tutti univoci nel raccontare gli avvenimenti di questa madre che durante i riots di Baltimora è andata a riacchiappare il figlio per le orecchie. È passata proprio l'immagine dappertutto, anche al telegiornale, non vorrei dire eresia. Sì, ma è diventato un video virale di YouTube, sì, no? Questa scena degli schiaffoni. No? E Schiaffoni, oltretutto, detto internos, gli ha pure tolto il passamontagna, che è una cosa piuttosto sì, grave. Ci abbiamo pensato tutti. Poi. Non trovo una cosa piuttosto grave. Al di là di questo, e tutti i giornali hanno, diciamo, osannato questa madre. Allora, la cosa che, diciamo, come femministe ci coinvolge maggiormente non è tanto la posizione dei media mainstream, che è reazionaria e doverosamente qualunquista per spoliticizzare gli avvenimenti, ma quanto che nelle reti femministe, non solo mainstream, ma anche queste paramainstream, borderliner, come si può dire, siano passati dei commenti che assimilano questa azione della madre a un'azione positiva, perché è un'azione non violenta, no? Per esempio, c'è un articolo terribile che dice: Toya, madre di 6 figlie di un ragazzo, già nonna, in TV riconosce il figlio Michael, 16 anni, che tira mattoni vestito di nero incappucciato. La madre esce di casa di corsa, lo raggiunge, lo prende per le orecchie, lo spinge fuori dalla strada, gli tira due ceffoni quando il ragazzo accenna a tornare sui suoi passi. Alla stampa dichiarerà: lo proteggo, non me lo faccio uccidere. Toia sa benissimo di cosa parla, lavora in un centro per il recupero della tossicodipendenza, violenza, droga e delinquenza sono gli approdi di molti giovani neri a Baltimora e lei, descritta dalle colleghe come estroversa e volitiva, vuole dare una lezione a quel ragazzo che ama. A parte il fatto che questo è un falso allucinante, perché lei ha detto che lo voleva proteggere dalla polizia, quindi non certo dalla droga, non c'era. No, e quindi i problemi che si pone la mamma non sono i problemi del fatto che gli Stati Uniti sono una società estremamente violenta, razzista, i neri sono relegati nei ghetti, disoccupazioni, stato sociale inesistente, le carceri traboccano di gente di colore, eccetera. No, sono la violenza, droga e delinquenza sono gli approdi di molti giovani neri di Baltimora. Allora, dopodiché addirittura fa un parallelo con Milano, no? Chiaramente, dicendo che ce ne fossero di madri così, avrebbero dovuto farlo anche a Milano, e che la violenza nelle piazze è assimilabile alla pornografia, perché si enfatizza la sessualità genitale eiaculatoria, spesso violenta, in stretta connessione col denaro e il potere, che taglia fuori la relazione. Questo è il succo della società attuale, perché è definita il metro regolatore della relazione è il mercato, e quindi tra virgolette sarebbe colpa della società attuale, però questo si riversa poi nelle piazze, no? Allora, dopodiché chiaramente dice che è possibile che si dia ancora spazio a chi con meschine pratiche travisato fa violenza, insomma porta violenza, non mi ricordo le parole esatte, e spacca tutto nelle strade. Allora, questo postato sulle reti femministe è di una gravità inaudita. Perché? Prima di tutto perché spoliticizza completamente dal punto di vista del patriarcato il ruolo della madre, cioè qui la madre è qualcosa di positivo, di buono, di nume tutelare, di qualcosa che riporta alla radice sana dell'ordine, no? E quindi oltretutto è estremamente strumentale, perché questo è fatto ad uso e consumo della posizione di regime, perché chiamiamolo ormai per quello che è. Sì, ma infatti quando dicevi all'inizio in apertura, no, che poco ci importa delle letture che ne danno i giornali, sì, mainstream e i media, questo è chiaramente vero, però purtroppo non siamo ad un livello tale di elaborazione, di assunzione di prospettiva di genere, no, che vada insieme a quella di classe, per poterci permettere forse di sorvolare su quello che passa attraverso i canali mediatici generalisti. Sì, anche perché queste sono posizioni di bordo, cioè non sono ufficialmente istituzionali, chiaro? Appunto, dico, cioè, è proprio perché stavo per dire proprio questo, no? Cioè che ci potremmo permettere di evitare completamente il dibattito mainstream, e se avessimo da questa parte della barricata un'analisi di un certo tipo, se avessimo una coesione intorno a determinati concetti, parole d'ordine ed obiettivi che ci permetta di starne fuori. Però purtroppo invece forse è bene sottolineare, come infatti spesso facciamo, che l'egemonia culturale di cui i giornali eccetera e tutti gli apparati sono veicolo, cioè è molto insidiosa ed è così cavillare da infiltrarsi anche in ambienti, no, che dovrebbero essere antagonisti in teorie rivoluzionarie anche dal punto di vista del femminismo. E anzi, forse nel campo femminista vediamo che il riformismo e tutta quindi l'ideologia riformatrice eccetera ha colpito molto duramente, e certo, quindi adesso ci ritroviamo, questo è un classico esempio dell'annosa questione della matrice di genere, diciamo, slegata da quella di classe, certo. No? Per cui il nostro problema è che la violenza è fallocentrica. Certo. Il nostro problema è che viene esercitata sempre dai maschi, perché certo. Le donne non sono, eccetera, eccetera. E questa è frutto di un'errata lettura proprio di quello che il genere è. Certo, oltretutto infatti per fortuna ci sono altri articoli, per esempio c'è un articolo di femministe su InfoOut che è intitolato Madri coraggio, madri disperazione, come ti stravolgo la realtà, e infatti loro accusano i media mainstream e chiaramente tutti quelli che hanno avuto utilità nello stravolgere questa storia, a loro ricordano che resta il fatto che quella donna non ha difeso la polizia dalle pietre ma il figlio dal piombo della polizia. E questa fa tutta la differenza, no? Infatti dice: è il mio unico figlio maschio, si lamenta poi la donna davanti alle telecamere, portandoci ad alcune considerazioni, innanzitutto sull'importanza dell'aggettivo maschio che supera la dimensione dell'unico figlio, riportandoci alla dimensione della povertà e soprattutto alla della valorizzazione possibile basata sul genere e sulle possibilità differenziate a partire dal genere. Nell'America più povera, dove sono tante donne sicuramente forti e coraggiose a portare avanti nuclei familiari orfani della figura maschile per via di disimpegno di guai giudiziari, come valutiamo il fatto che sembra resistere la necessità della sopravvivenza di quell'unico figlio maschio per riuscire a salire sull'ascensore sociale che porta fuori dalle miserie del ghetto? Ci ha telefonato adesso un compagno facendo una battuta che ci è piaciuta moltissimo e quindi la dobbiamo riportare. Ha detto: io non ho mai visto nessuna mamma bianca andare a prendere a bastonate in piazza un po' il figlio poliziotto. E poi c'è un altro articolo del collettivo delle Dumbless di Udine, che chiaramente è sempre un collettivo femminista ma appunto di tutt'altro tenore, che parla sempre di questa strumentalizzazione dei media mainstream su questa, e anche di parte del femminismo, no? Quando dicono che avremo bisogno di tante mamme così, cioè questa veramente chi ha detto avremo bisogno di tante mamme così è Daniela Santanchè, e chi invece ha detto che dovrebbero esserci tante madri di questo tipo invece la femminista, quindi fate un po' voi come fate Vobis. Allora, e loro finiscono la critica appunto a questa posizione dice: ma siamo seri? Ma davvero qualcuno può credere che Expo abbia come obiettivo la nutrizione del pianeta, la lotta alla fame e alla denutrizione? Ecco, se ci credessimo, le nostre madri dovrebbero proprio mollarci sonori ceffoni. There's a fossil that's trapped. as a blind man looking for a shadow. Però noi come femministe ci sentiremmo di fare delle osservazioni e di dire una cosa rispetto a questi discorsi che sono stati fatti, e cioè che di fatto comunque non è stato inquadrato quello che è il ruolo della madre in questa società. Cioè, alla madre il patriarcato ha assegnato un ruolo preciso e che è fatto di tutta una serie di diritti e doveri, no? Tra di obiettivi da raggiungere e di investimento da parte della società. Chiaramente, in maniera chiamiamola semplicistica, la madre è quella che mette al mondo il figlio, punto. Però la madre nel sociale non è questo. La madre è quella che ha un ruolo di catena di trasmissione dei valori dominanti. Non dimentichiamoci mai che siamo noi, sono le donne che allevano anche i figli maschi, e che quindi tutta quella tutto quel fardello di valori che accompagna il maschile e il femminile viene trasmesso in primis dal ruolo materno. Questo hai voglia di dire è positivo, è negativo, non è più positivo, il ruolo della madre dovrebbe essere un altro, eccetera. Però in questa società adesso è questo. Beh, ma infatti se vediamo quando si dice, no, le riforme che hanno attraversato l'istituto della famiglia, no? Che chiaramente, certo, come società naturale, come primo nucleo societario in cui tutti quanti noi, no, da bambini sviluppiamo e introiettiamo un principio di autorità, perché, certo, l'autorità familiare, quindi quella sia, certo, materna che paterna, è la prima autorità con cui ci troviamo e a ognuna ha ruoli diversi, le due autorità, esatto, si compensano. E prima, hanno ruoli quando la famiglia aveva proprio una marcata impronta autoritaria, pubblicistica, no? Soprattutto durante il fascismo, certo, il padre era l'autorità che trasmetteva i valori di ordine pubblico, cioè di mantenimento del pubblico, quindi anche del bambino e del figlio all'esterno del sistema famiglia, e la madre era quella invece che preservava l'ordine all'interno del, certo, focolare domestico e della famiglia, no? Quindi aveva un ruolo di autorità, diciamo, più nella sfera privata. Era anche un po', infatti, la moralizzatrice, no? Custodiva tutto questo universo valoriale più intimo che pubblico. Quando, anche grazie soprattutto, non anche, alle lotte, la famiglia ha cambiato fisionomia, no? Effettivamente, quindi è stata sancita la parità. Tant'è vero che è stato uno dei momenti di attacco molto forti, cioè il femminismo, per esempio, negli anni 70 la famiglia l'ha attaccata pesantemente come il microcosmo che ripeteva la gerarchizzazione sociale, no? Certo, infatti se insomma la società in generale va in un certo modo, chiaramente la famiglia, certo, ne sarà il riflesso, no? E, certo, viceversa. Però quando si è aperta, diciamo, questa struttura familiare, no? E adesso infatti non è neanche più percepita come un valore fondante quella della famiglia nucleare, che rimane unita, no? Anche, certo, dalla collaborazione dei coniugi, cioè tutto si è si è un po' aperto, sì, e soprattutto è cambiata. E c'è stata una parificazione tra padre e madre, no? All'interno della famiglia, diciamo, però che parificazione? Cioè, nel senso che va bene la parità di doveri, di diritti, eccetera, nella misura in cui allora invece che avere diciamo scisso la trasmissione di valori di stampo pubblico al padre e quella invece di stampo privato morale alla madre, diciamo i ruoli sono diventati un po' interscambiabili, ma comunque uno o l'altro, tutte e due insieme, devono assolvere questo compito. Certo, questo è il problema di ogni avanzamento, che è soltanto prettamente formale, no? E che non sradica. Certo, poi in realtà. E tanto più nella comunità nera americana, dove viene riconosciuta una predominanza della figura materna proprio in concomitanza con la venuta meno non tanto del ruolo sociale del padre, quanto proprio fisicamente del padre, cioè perché il padre è in galera, perché il padre è morto, perché il padre è andato altrove a lavorare, perché il padre la figura femminile è quella che poi diventa di riferimento, e quindi, come diceva Margherita, somma tutti e due i ruoli addirittura. E poi viene strumentalizzato ovviamente, no? Perché nel momento in cui parli appunto di madri coraggio, la madre che va a prendere il figlio, la madre che fa questo, la madre che fa quest'altro, l'opinione pubblica comunque su questo, no? Tenta sempre di mediare questo ruolo con una funzione comunque, come dicevi tu, positiva, quando in realtà non è che di per sé il ruolo di madre sia un ruolo proprio come adesso, proprio come adesso, anzi è un ruolo di trasmissione di valori dominanti, e quindi però in realtà anche di disciplinamento delle donne stesse, certo, no? Per cui c'è tutta questa figura materna nelle sue evoluzioni, eccetera, momenti diciamo più autoritari, meno autoritari, in cui comunque la sostanza non cambia, diciamo si prendono due piccioni con una fava, perché mentre è il bastione a difesa dei valori dominanti verso il figlio, in realtà è disciplinata essa stessa, no? Per cui quella stessa madre che non riesce ad adempiere a queste varie funzioni viene o considerata diciamo una madre snaturata, no? Cioè viene completamente, le vengono tolti i figli, viene, cioè la lettera scarlatta su di lei, no? Cioè, quindi come al solito il modello si ripercuote su tutti i soggetti che agiscono all'interno, cioè, del sistema. Io vorrei fare una nota a proposito proprio di questa madre che è andata a prendere per le orecchie, una nota personale. Qualche anno fa sono andata a Montepulciano per caso, sono passata a Montepulciano, sul corso di Montepulciano c'è una targa, perché una targa, perché lì è stato impiccato un partigiano di 20 anni. Io quando ho letto questa cosa diciamo sono rimasta molto colpita, perché era siciliano poi tra l'altro, e quindi molto lontano da casa, insomma, no? Mi sono chiesta, un ragazzo di 20 anni è venuto a morire lì per un ideale. Allora mi chiedo, ma la madre non l'ha preso per le orecchie? Cioè i partigiani, i miei zii, mia madre, avevano 20 anni, neanche. Mia nonna doveva andarli a prendere per le orecchie? Perché così avrebbe salvato loro, ma forse non avrebbe salvato la patria. Oppure quegli stessi che avrebbero fucilato i partigiani sono gli stessi che vorrebbero che le madri prendessero per le orecchie chi manifesta in piazza oggi. E poi mi ricordo anche delle cose terribili che sono successe negli anni 70 rispetto ai militanti, non tanto quelli che finivano in carcere, perché ne sono stati tantissimi per tantissime ragioni, quanto quelli che sono finiti in carcere, quelli e quelle per la lotta armata, delle dichiarazioni delle famiglie, delle madri in particolare, da accapponare la pelle. Però noi quella volta sapevamo, come femministe, e avevamo molto chiaro qual era il ruolo delle madri e qual era il ruolo della famiglia, e non avremmo mai accettato che passassero degli articoli come quelli che stanno passando adesso sui siti, non dico istituzionali, ma neanche di sguincio pari istituzionali delle femministe, articoli di questo tipo. E senza contare poi che le madri spesso e volentieri fanno delle figure terribili, nel senso che incarnano proprio questa si sente fisicamente che sono catena di trasmissione dei valori dominanti. Noi ci siamo dimenticate delle madri che denunciano i figli che si drogano perché così imparano, ci siamo dimenticate delle madri che denunciano la ragazzina dei Parioli che si prostituiva perché così impara, ci siamo dimenticate di quel, anche nel suo parte da una disponibilità della famiglia a farlo ravvedere, e questa è una cosa che fa male. Fa male soprattutto perché appunto è nella maggior parte dei casi, no? Almeno quelli che citavi tu adesso, è tutta una questione appunto di apparenza, di vergogna nei confronti, capito, di questa cazzo di società che deve mantenersi in un certo modo, devi stare al tuo posto, e quindi per stare al tuo posto tu non puoi stare in mezzo a una strada, non puoi scendere in piazza, non puoi alzare la voce, non puoi manifestare, non puoi fare assolutamente nulla che non sia decisivo preciso e all'interno del binario che hanno costruito per te, che è un binario che probabilmente porta comunque a nulla, no? Perché tu non puoi avere nulla, tu devi semplicemente camminare sul tuo binario, e quindi in realtà poi questi genitori, queste madri rappresentano fondamentalmente questo, cioè nel senso la vergogna e l'ordine da riportare all'interno della famiglia per evitare problemi, ed è per questo forse che invece noi scendiamo in piazza, proprio perché ci siamo stufati di stare in ordine, ci siamo stufati e stufate di, non so, di avere questa pressa sopra la testa che ci schiaccia e non ci permette assolutamente di esprimerci in nessun modo, di essere quello che siamo, che vorremmo essere. Bene, con questo vi salutiamo, un grande abbraccio a tutte e tutte quelle che sono private della loro libertà. Se volete risentire la trasmissione andate su coordinamenta.noblogs.org oppure su www.ondarossa.info, perché la caricheremo sul sito di Onda Rossa. Anche per i materiali potete andare sul nostro blog, e se volete scriverci coordinamenta@autistiche.org. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life in it.